известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. For scores of New Yorkers, it was terror. These images instantly brought them back. Cari ascoltatori, ci sono momenti in cui gli americani ci sembrano letteralmente pazzi. E beh, è successo ieri quando abbiamo visto quelle immagini che fossero apparse, che ne so, in un film di HBO, in un episodio di un seriale un po' a corto di idee, in una di quelle ricostruzioni, no? Come andò veramente quel giorno, passi, ma capire che tutto quello era vero e pensare appunto che gli americani certe volte siano davvero pazzi è tutt'uno. Insomma, è successo, probabilmente lo sapete, che a un certo punto sopra New York, per l'appunto più o meno dalle parti dove sorgevano e stanno cercando faticosamente di risorgere le Torri Gemelle, è passato un enorme Boeing 747, peraltro dalla foggia e dai colori ben noti, perché sono quel bianco azzurro dell'Air Force One, anche se poi non era l'Air Force One, era l'Air Force Two, ma visto da giù, francamente, come dire, chi se ne frega. Insomma, di fatto quell'aereo stava volteggiando in modo del tutto atipico sopra il cielo di New York, come fecero due tristemente famosi aerei la mattina dell'11 settembre del 2001. Ebbene, tutto ciò poi alla fine perché pare per scattare delle fotografie. Infatti, accanto al grande aereo presidenziale, all'interno del quale, sia ben chiaro, non c'era nessun presidente, probabilmente c'era un pilota e un equipaggio al minimo indispensabile, a fianco volavano due caccia, probabilmente dentro i due caccia c'erano dei fotografi, probabilmente stavano facendo delle fotografie all'Air Force One con il meraviglioso, irripetibile, inimitabile sfondo di New York. Ma ai newyorkesi è letteralmente preso un colpo. Quelle grida che avete sentito sono poi testimoniate da un numero sterminato di video. YouTube è pieno, gente che corre, gente che scappa. In pratica si è rimessa in scena, seppure su piccola scala, perché per fortuna la scena è durata poco, quello che è accaduto all'incirca poco meno di otto anni or sono. Il sindaco di New York Michael Bloomberg, che non era stato messo al corrente della questione, è andato su tutte le furie, ha detto che un sorvolo di questo genere sia stato fatto proprio dove c'era il World Trade Center, ha dimostrato cattivo giudizio e mancanza di sensibilità. Noi ripetiamo, da parte nostra, follia totale. Il Dipartimento della Difesa è all'origine dell'iniziativa, addirittura l'avrebbe organizzata, un servizio fotografico per l'Air Force è stata la definizione che il portavoce della Federal Aviation Administration ha dato quando gli hanno detto: ma che avete combinato? Il portavoce di Obama, Robert Gibbs, ha detto: ma anch'io ho visto questa notizia, non so che dirvi, stavo facendo altre cose. Insomma, è caduto dalle nuvole, assolutamente spiazzato. Il volo era stato autorizzato dalla Federal Aviation, però si era dato ordine alle autorità locali di non renderlo pubblico, rivela la polizia di New York. E questo è ancora più folle, perché l'avessero detto, se non altro, con il tambur battente delle televisioni e delle radio, probabilmente la gente l'avrebbe accolto con un po' più di preparazione. Tutto questo alle 10 di mattina, no? C'era un cielo blu che sembrava il cielo blu dell'11 settembre, purtroppo indimenticabile. Migliaia di persone, che naturalmente si sono spaventate, sono scese per strada nel Financial District, ovvero esattamente dove c'erano le torre gemelle. Anche a Jersey City c'è stata molta paura dall'altra parte, e poi alla fine pare che qualcuno abbia preso dei megafoni, qualche agente di polizia abbia detto: no, attenti, non vi spaventate, state tranquilli, è soltanto una operazione promozionale. La gente sicuramente non era contenta. In cui, no, non solo l'America ma la Terra sembra tornare a essere il posto giusto per l'apocalisse, quando succedono cose come quelle che ci sono state annunciate ieri pomeriggio, peraltro tardivamente riprese anche dai notiziari nazionali. Insomma, quando epidemie e terremoti, come sta capitando, come è capitato nelle ultime ore in Messico, addirittura si sovrappongono, un'onda di terremoto, una scossa del circa del grado 6 si è è sovrapposta alle notizie che parlano di ormai più di 150 morti in una terra che insomma avevamo peraltro analizzato, conosciuto, riscoperto anche qualche solo qualche settimana fa in occasione della visita di Obama, con le piaghe serie che la perseguitano da anni a questa parte, in particolare il narcotraffico, in particolare i problemi legati alla emigrazione clandestina. Ieri sembrava veramente un episodio biblico. Si proseguono tra l'altro le analisi chimiche attorno a Barack Obama, non lo lasciano più in pace, vogliono capire che sicuramente non abbia assorbito alcun morbo durante la sua recente visita in Messico. Però ieri sono arrivate altre conferme che sta bene, non ha assolutamente niente, che non ha alcun sintomo, insomma il presidente non ha avuto guai dalla sua visita e invece ha preso di nuovo la parola al riguardo, in attesa poi della comunicazione con la quale domani parlerà all'America per il suo 100° giorno di presidenza, argomento al quale tra poco dedicheremo un approfondimento insieme a Mario Platero. Ha parlato di preoccupazione, di prudenza, ha detto niente panico, però ha detto che c'è stato addirittura un eccesso di cautela da parte del Dipartimento di Stato, che chiede di evitare i viaggi in Messico, ma insomma tutto è sotto controllo. E in effetti la notizia interessante da parte americana è che negli Stati Uniti non ci sono vittime, contrariamente a quanto sta accadendo in Messico. Evidentemente le strade intraprese per fronteggiare questa epidemia sono corrette. Ci stiamo muovendo aggressivamente, ha detto Richard Besser, il direttore del Centro per il Controllo delle Malattie e la Prevenzione di Atlanta, lo stesso che aveva avvertito, peraltro lui stesso aveva avvertito gli americani ad aspettarsi il peggio, che dei casi più gravi ci possono essere, ma insomma che per ora stiamo cercando altri casi. Ecco, ha detto: mi aspetto che ne troveremo altri, ne troveremo i più gravi, sicuramente i meno gravi, ma a questo punto non metterei restrizioni di viaggi per chi viene negli Stati Uniti. Insomma, la situazione è di guardia alzata, di attenzione, ma non di estremo allarme. Una notizia appena spuntata invece dalle agenzie è che Fox non trasmetterà alle 20 ora di Washington, nella notte italiana, il discorso domani, il discorso in programma per i primi 100 giorni della presidenza. Le altre TV hanno accettato di trasmettere in diretta la conferenza stampa, ovvero prime time, le 8 di sera, di Barack Obama, ma invece la Fox ha detto di no, manderà in onda tranquillamente un serial, la serie Lie to Me, e probabilmente è uno degli ormai ricorrenti, no, dispetti nei confronti di un presidente che sicuramente con i media ha stabilito un rapporto ravvicinato, e c'è chi pensa troppo ravvicinato, un presenzialismo eccessivo, ha parlato troppo in televisione, lui ha usato strategicamente la televisione per connettersi con i cittadini americani e spiegare i termini soprattutto della crisi e la operatività, come dire, empatica, no, compatta che ha chiesto nelle sue strategie alla nazione, ma c'è chi giudica tutto questo come eccessivo, e questo segnale da parte della Fox è molto chiaro. Si parla naturalmente dei secondi 100 giorni che si vanno a inaugurare domani, ma su questo appunto approfondiremo insieme a Mario Platero tra qualche minuto, e prima ancora lo approfondiremo invece insieme a voi attraverso i pareri che ci avete offerto questa mattina a Express Yourself, il nostro sito per farvi raccontare i vostri punti di vista. Il focus di oggi era naturalmente appunto ai 100 giorni, i primi 100 giorni della presidenza Obama. Lost in the rain and wind. pick it up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess. Questa è America profonda, caro Emiliano. Si chiamano Hanson Family, sono una di quelle band che tengono in vita una radice musicale americana nella sua, così, nella sua integrità, nella sua purezza. Ce n'è un'altra che per la quale andiamo pazzi, tu direi chi se ne frega, te lo dico lo stesso, ti ascolto, caro, con interesse, non è vero, che si chiama Felice Brothers, i fratelli Felice, sono di Brooklyn, ve li faremo sentire nei prossimi giorni, e sembra di sentire la band, no, ai tempi di Blood on the Tracks, insomma. C'è chi ancora in America fa questa musica, no? C'è un presidente che invoca di ritrovare le radici. Beh, questi lo pigliano in parola e risuonano la musica che si suonava 50, ma forse anche 70, 80 anni fa. Dati di approvazione del presidente Obama, dopo con Mario ne discuteremo e li approfondiremo. Vi do semplicemente la media: il 62,4% degli americani dopo 100 giorni dice sì, ha detto, dice sì grazie a Obama, 44esimo presidente, il 30.7 disapprova. Questa è la media dei sondaggi. Tutti i principali casi sondaggi ne hanno fatto uno dedicato. Si va dal minimo di gradimento del 55, che è stabilito da Rasmussen Report, a un fragoroso 69% dato da ABC Washington Post, uno dei marchi peraltro più affidabili di sondaggistica. Kennedy, vi ricordo, resta ben lontano, lì stiamo sopra l'80%, insomma. E però George W. Bush, che ha finito sotto il 30, dopo i primi 100 stava anche lui sopra il 60, quindi vuol dire che ride bene che ride ultimo. Buona partenza, però poi vediamo come va la corsa, insomma, come diciamo. Sentiamo cosa ne pensate voi. E allora, sfrugugliando così tra i pareri dei nostri tanti affissionato su Facebook, bisogna dire che anche in questo caso Obama passa all'incasso e si porta a casa un bel bottino di pareri favorevoli. Ha vinto. Direi che il partito degli entusiastici prevale nettamente. Pesco a caso due entusiasti, appunto. Alessandro: Obama deve suscitare l'invidia di tutti per la snellezza e l'agilità con cui affronta di petto i problemi e le grandi parole di ispirazione che dedica ai giovani. Forza Obama, cambiaci questo mondo medievale. Poi c'è Valentina, che è molto schietta: Obama, facce e sognami, scuso per il romano che non è proprio la mia lingua principe, mi sa che in 99 giorni, 100 ormai, sia diventato anche un modello per leader di maggiore esperienza, ha uno stile leggero ed operoso, concreto ed idealista. A proposito di Medioevo, c'è un articolo di George Will su Newsweek che dice che uno storico definisce il Medioevo come 1000 anni senza un bagno, senza gabinetto, e dicono i primi 100 giorni di Obama potrebbero essere definiti 100 giorni senza stare mai zitto, no? A proposito della Fox e del fatto che gli hanno detto basta, un'altra conferenza stampa. Chiudo questo primo giro con una piccola ombra invece che getta lì nello stagno Mukeba. Dice: viste le premesse, Obama sta facendo un buon lavoro. L'incantesimo però potrebbe spezzarsi a breve se le trattative sull'auto andassero male. Speriamo bene, quindi Mukeba dice di stare attenti. La salute pubblica, la sanità sarà il core business, salvo altri disastri, il core business della presidenza nei prossimi 100 giorni, poi faremo il punto a 200. Flavio intanto dice: in campagna elettorale si diceva che fosse uno dei pochissimi in grado di recuperare gli Stati Uniti a livello internazionale e nazionale che compete loro, finora lo sta confermando nei fatti. Francesco: non può che essere positivo. Obama ha cambiato la politica americana, dall'imposizione a forza di bombe e invasioni è passato a una politica del dialogo. Vengono colti, mi sembra, dell'idea di Obama di governo. Umberto: il futuro e il presente viaggiano in direzioni spesso diverse. E Bambi Obama, lo chiama, evidentemente non gli sta tanto simpatico, fa quel che può tra velocità online che può funzionare con chi ha l'iPod nuovo e conciliare Main e Wall Street. Certo, si muove e deve farlo, insomma, non è proprio convinto, dice si deve adattare alle condizioni. Tra i tanti entusiasti c'è anche qualcuno però scettico, quindi leggo quelli degli scettici che sono nettamente di meno, però forse sono più originali in questo contesto di grandi osanna per il nostro Obama. Per esempio Michele scrive: sapere che i 2/3 del proprio debito pubblico è in mano alla Cina non credo faccia fare ad Obama i salti di gioia. Per quanto concerne le truppe in Afghanistan, la cosiddetta sistemazione delle zone non è certo avvenuta e il ritiro dall'Iraq è nei tempi dichiarata ormai da 2 anni, quindi insomma nulla di nuovo sotto il sole, però dice si nota una innegabile maggiore capacità decisionale da parte di questa amministrazione rispetto alla precedente. Poi c'è Vincenzo che non si schiera perché dice: posso ribellarmi alla logica tutta americana dei bilanci a 100 giorni, non è un lasso di tempo troppo limitato per una prima valutazione, però è anche una data simbolica. Che sì, insomma, poi ormai è qualcosa di più, perché su questi 100 giorni si può tracciare già è più di mezzo secolo che storici, giornalisti, analisti americani lavorano, e la logica che poi discende peraltro da Franklin Delano Roosevelt, insomma dal problema di risolvere subito. Non è una subito, cifra a caso, insomma, i 100 giorni. Ma forse è una cifra simbolica, però il discorso è un'amministrazione è veramente qualcosa di diverso, un organismo veramente diverso da quello che l'ha preceduta. Si trova a confrontarsi, nel caso di Obama in modo quasi tragico, con i problemi o comunque con l'eredità che arriva dall'amministrazione precedente, lì dà l'impronta, il segno di quello che sa o può fare, insomma, e qualche giudizio secondo me può essere a buon ragione dato. L'unico parere veramente contro e anche ferocemente contro è quello di Vito, che chiede: Obama è il nuovo sogno americano per cambiare il mondo oppure un luogo dove la peste italiana trova un inedito terreno dove colpire? Mica ho capito. Ti vedo basito, infatti poi spiega il suo concetto. Un capo di governo che incontra Fiat, sindacati e grandi banche decotte per salvare industrie decotte di un settore decotto. Sembra uno scenario di concertazionismo alla matriciana fine anni 80 e inizio 90. Invece siamo a Washington e nell'America ex liberista. Ma come si chiama il nostro si chiama Vito. Se Vito c'ha questi 7-8 milioni di posti di lavoro da offrirci su un vassoio, l'alternativa ci sarà. Però è veramente l'unico nettamente contro. Non è facile. Cristiano invece sottolinea un po' l'utopia di Obama, perché dice: fino ad ora all'estero soprattutto i gesti sono stati pressoché unilaterali, ma di certo promette bene. Parla delle tante offerte, no, che Obama un po' in direzione di tanti nemici o ex nemici ha rivolto, tendendo, non so se era Moscello d'Ulivo o comunque una mano stesa, quello che volete. Le risposte sono state più che altro improntate allo scetticismo, in alcuni casi anche ha ragione, ma insomma qualcosa si sta muovendo. Matilde dice: sono soddisfatta di Obama, non come la precedente presidenza e quando i problemi non c'erano se li inventava. Simone non manca mai, il nostro Simo, anche lui sferzante, insomma, simpatico. Nessuno ha mai avuto l'opportunità di spendere così tanti soldi in 99 giorni. Neanche una donna con una Mastercard Platinum con accesso a 1000 negozi di scarpe, borsette ed accessori avrebbe potuto fare meglio. Però l'elicottero non gliel'hanno fatto. Non gliel'hanno fatto. E poi invece c'è Sandro che dice: il presidente si è mosso in maniera opposta a chi aveva ottenuto solo sconfitte. Rimaniamo all'economia, edizione rivista del New Deal e forti avvertimenti alla pur potente finanza americana. Ultima tripletta. Massimo dice: con tutti i problemi che implicitamente aveva ereditato con la sua carica, non poteva non fare qualcosa. Apprezzabile lo stimolo alle aziende automobilistico in senso ecologico. Luca invece condensa tutto in una parola, che è avercene, e Federico condensa tutto in 2 parole, un punto esclamativo: prestatecelo, please. me like the reaper's hand. I will swing free until they cut me down. Papa, don't tell me what I could have done. She's the one who begged me. È strano davvero il, un filone di reazione che sta prendendo piede a questa questione, a queste notizie, insomma, per diversi, in diversi sensi angoscianti, della febbre suina, un filone che definirei scettico, ma che sia sulla pagina di Facebook, sia sui messaggi che ci mandate via SMS 349-238-6666 o insomma una lunga mail che abbiamo ricevuto e che adesso vorrei anche recuperare, uno scetticismo di fondo legato a come dire, osservazioni legate all'industria farmaceutica, legate al fatto che se uno va in Sud America e si fa fare un certificato medico, pare con qualche dollaro ti scrivano qualsiasi cosa, insomma tanta gente non ci vuole credere, sostiene che la notizia è gonfiata, anche la drammatizzazione della notizia è certamente in eccesso. Dunque noi abbiamo, credo, in posizione a Milano questa volta Mario Platero, il corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Ciao Mario. Eccoci, buongiorno. Ah, forte e chiaro oggi ti sento. Per una volta ci sentiamo in una diretta pulita. Pulita, però io sì. So che tu hai sicuramente ben aperti i tuoi canali di comunicazione con New York in particolare e con l'America più in genere, ma New York certamente ti è assai familiare, e in altre occasioni a me è capitato di andarmi a informare o di essere io presente alla fonte di notizie che qua risuonavano in modo magari sinistro, tragico ed enorme, e poi capire che in America, o nella fattispecie proprio nella Grande Mela, non era proprio così, che c'era comunque una distorsione nel corso del viaggio della notizia da là a qua. Ecco, prima di passare a parlare di presidenze e di 100 giorni, vorrei un aggiornamento, come dire, sui tuoi canali sulla questione della febbre suina. A New York qual è la temperatura, diciamo, emotiva che circonda questa notizia? Questo vago risuonare un po' apocalittico si sente, o per ora insomma la calma regna tranquilla? Ma dunque, New York è una città che dopo l'11 settembre è sempre stata pronta all'idea di un altro attentato. Quindi il fatto che ci sia un'influenza chiaramente fa appena certo. Alzare un sopracciglio, se vuoi, certo. Ai newyorkesi. No, è chiaro che la gente si preoccupa, soprattutto i genitori che hanno i figli a scuola. C'è stato questo allarme in questa scuola del Queens, ma era un gruppo di studenti che era appena tornato dal Messico, una vicenda del tutto circoscritta, e direi soprattutto che poi si è tradotta in nulla, cioè si è tradotta in una semplice influenza. Ecco, questo non significa che non siano scattati meccanismi di allarme, che il sindaco Bloomberg non abbia messo in movimento una serie di meccanismi, sia negli ospedali, le ambulanze, metodi di comunicazione, insomma, per poter intervenire tempestivamente. E questo avviene anche su base nazionale, ovviamente. C'è un po' più di tensione forse ai confini col Messico, dove certo. Il passaggio è quotidiano, però ecco, per ora diciamo che c'è l'idea che potrebbe esserci un'epidemia, ma ancora non c'è stata, e forse si riuscirà a prevenire. Soprattutto, diciamolo con spirito ottimistico, ancora non c'è stato nessun malato grave. Ecco, questo è l'elemento più rassicurante. E tra l'altro c'è un Ministero della Sanità che ancora un po', no, nonostante le mille prudenze e le monumentali strutture amministrative montate da Obama, ma lì c'è un Ministero ancora non completamente sì, a posto. Sì, no? C'è la Sibelius, dovrebbe, ecco, questo se vuoi forse un elemento indirettamente positivo, che certo. Dovrebbe accelerare il processo di nomina per il certo, segretario certo. Per la sanità, che a 100 giorni appunto certo. Dalla nomina di Obama, nonostante il Presidente abbia fatto una serie di nomine rapidissime, ancora manca. C'erano stati, come ricorderanno i nostri ascoltatori, una serie di infortuni con gli altri candidati alla carica di segretario alla sanità e quindi a questo punto il tempo è passato, però dovremmo, credo, essere davvero a pochi giorni dalla conferma. Oh Mario, dunque, nella prima parte del programma abbiamo citato questi sondaggi naturalmente molteplici e anche abbastanza difformi sul gradimento degli americani nei confronti di Obama. Si va da un 55 di Rasmussen fino a un 69 di ABC News, Washington Post, dati comunque che in media danno quasi un 63% di approvazione, quindi un dato molto solido, sebbene vicino, quasi ricalca il dato di George W. Bush, che poi in ben altro modo ha finito, e lontanissimo da quello di Kennedy. Poi abbiamo raccontato che Fox ha deciso di non mandare in onda la conferenza stampa di domani sera, perché dicono che si sono un po' stufati, insomma, queste conferenze stampa in prime time, e c'è George Will su Newsweek che dice in sostanza quanto parla questo presidente, quanto vuole il prime time, quest'altra celebrazione in mancanza di cose necessarie, importanti, urgenti da dire, ce n'era proprio bisogno. Ecco, prima di arrivare magari un breve consuntivo, una tua osservazione su questa, come dire, su questo istinto di comunicazione a tutti i costi che ha contraddistinto sicuramente questo primo trimestre di Obama. Ma dunque, c'è stato in particolare per i 100 giorni un cambiamento di rotta alquanto improvviso, perché Gibbs, il portavoce, aveva sempre minimizzato, nonostante i giornalisti nelle conferenze stampa quotidiane continuassero a chiedere quando si avvicinava la data, beh, insomma, i 100 giorni arrivano, che bilancio fate, qual è l'atteggiamento del presidente, e Gibbs diceva no, ma guardate, il presidente va avanti, questa storia dei 100 giorni è una scadenza del tutto teorica, astratta, creata dai media, anzi ributtava la palla nel campo dei media. E poi all'improvviso, proprio la settimana scorsa, ha preannunciato questa conferenza stampa di cui tu parlavi, precisando che sarebbe stata una conferenza stampa in occasione dei 100 giorni. E dunque, certo, questa cosa ci ha colto un po' tutti in contropiede. E l'idea è che Barack Obama, secondo me, sta anche facendosi un po' le ossa nei suoi incontri stampa. Diciamo che il primissimo non è andato molto bene, era piuttosto incerto, il secondo è andato un po' meglio. Sta cominciando a capire come gestire il prime time televisivo, che, certo, devo dire, non è stato finora il suo forte, fra le tante cose che invece si possono dire di positivo su di lui. È un prime time difficile, lo charme di Reagan era indimenticabile, la prontezza di Bill Clinton, devo dire persino in certe occasioni, anche se contraddittoria e magari per alcuni antipatica, la preparazione o comunque la risposta provocatoria di George W. Bush. Ecco, Obama finora è apparso così, un po' sulla difensiva, un po' indeciso, quindi credo che preferisca anche un po' professorale, forse, un po' professorale, esatto, non, insomma, beh, professorale, ma anche con alcune incertezze, soprattutto, certo, su domande specifiche sull'economia. A volte poi per gli addetti ai lavori ci si accorgeva che schivava la domanda andando sul generalismo, quindi io credo che lui forse lo faccia anche per rafforzarsi, per farlo al più presto, per essere pronto poi eventualmente a situazioni più difficili, e anche perché, diciamolo, dalla sua ci sono comunque 100 giorni non banali. Un presidente, certo, questo che viene riconosciuto da tutti, ha fatto sicuramente quanto la presidenza Johnson, subito dopo Kennedy, lo ricordiamo, che fu una presidenza che nei primi 100 giorni rivoluzionò una serie di parametri sia sui diritti civili che su altre questioni, la famosa Great Society, no? Certo, di Lyndon Johnson. Ecco, Barack Obama è riuscito a far passare un pacchetto di stimoli di quasi 800 miliardi di dollari, ricordiamolo, è riuscito a mettere insieme un approccio comune tesoro-banca centrale per fronteggiare la crisi, una crisi che ha ereditato e che era aperta, ha organizzato un pacchetto di riscatti che poggiava sui privati per i cosiddetti titoli tossici, misura poi controversa per altre ragioni, è stato in Europa con tre missioni importanti, il G20, il vertice NATO, il vertice con l'Europa, un viaggio in Turchia dove ha affrontato la questione del mondo islamico, ha aperto all'Iran e quindi cercato di fare un dialogo con Teheran, ha persino stretto la mano al presidente venezuelano Chavez. Ecco, direi che ha fatto davvero molte cose in questi 100 giorni. Forse la critica è che non ha portato a casa molto, però chi semina raccoglie, ha detto proprio il suo portavoce Gibbs, e direi che questo è forse l'atteggiamento di Barack Obama, un uomo prudente, un uomo riflessivo che tende la mano e che, se poi dovrà intervenire in modo duro, sarà più giustificato anche agli occhi dell'opinione pubblica. Io ci ho provato, ma quelli non hanno risposto. Per concludere, sei d'accordo che in questo momento il grande punto interrogativo, il più grosso punto interrogativo, che poi si espande su tanti settori limitrofi, naturalmente occupazione, economia e quant'altro, resti quello dell'auto, e sei d'accordo con quanto dice molta stampa americana, che i secondi 100 giorni dovrebbero essere quelli della benedetta / maledetta questione sanitaria, sempre se le emergenze lo permetteranno? Sì, ecco, adesso entriamo nel vivo. A quel punto riuscirà a stabilire, per esempio, un buon rapporto con i sindacati, ci sono una serie di contenziosi aperti, riuscirà a far passare la sua proposta di riforma sanitaria. Queste sono sfide importanti per il secondo. Per l'auto, ecco, io credo che proprio adesso abbiamo notizie che forse anche sul fronte dei creditori si è raggiunto un accordo, forse siamo davvero ormai alla vigilia della famosa svolta storica con la Fiat, che alla fine entra in questa proprietà Chrysler. Sono indiscrezioni dell'ultimissima ora. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'intervento di Barack Obama, occorre dirlo, senza l'intervento decisivo dello Stato, che ha dato crediti per una ventina di miliardi di dollari alle case automobilistiche, un credito che George W. Bush aveva rifiutato. Bene, grazie Mario, ti saluto e ci sentiamo. Senti, ma quell'aereo sopra New York non ti ha fatto un po' impressione? Quelle immagini erano un po' agghiaccianti, le hai viste? Beh, ogni tanto capita, e non è chiaro se vengono, ti dirò, non è soltanto quella, ma ogni tanto capita di vedere non solo degli aerei, ma anche degli elicotteri che stanno fermi così o sul parco o sopra la città, e non si capisce se sono alla caccia di qualche possibile terrorista o sono lì a monitorare la situazione, ma dalle finestre dei nostri uffici li vediamo, e ogni tanto vediamo qualche aereo che sembra fuori rotta, ma così ci siamo abituati vicino. Anche a quello. Grazie a Mario Platero. I 100 giorni, vi ricordo, vengono celebrati ormai dal Presidente in prima persona con una conferenza stampa domani alle 8 ora di Washington, quindi notte profonda in Italia, ma naturalmente teletrasmesso anche dai canali satellitari dalle parti nostre. Walking slow down the avenue through my old neighborhood. Don't know why I'm happy, I got no reason to feel this good. Maybe it's because I'm all alone and I got no place to go. And everywhere I look I see another person I'll never know. Gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Chiudiamo con alcune notizie. Io ho roba leggera, come si dice. Quindi, io ho roba pesante. Allora vai col pesante, poi non finiamo leggeri. Stiamo parlando di droga, naturalmente. Ci riferiamo sempre a questo allarme febbre suina. Naturalmente la radio sta seguendo passo passo tutte le vicende. Io mi concentro su alcune notizie che arrivano dall'Asia e dalla Cina in particolare, che sono sempre un nostro punto di riferimento. Questa mattina non mi sono fatto mancare la quotidiana telefonata con il nostro Saro Capozzi, certo, che mi ha aggiornato della situazione. E mi ha detto, se non lo senti una volta al giorno, mi sveglio la mattina stamattina e chiamo Saro, dove peraltro in Cina sono già pomeriggio inoltrato, e insomma mi ha detto una cosa molto interessante, per certi versi secondo me anche un po' inquietante, e cioè che le autorità cinesi hanno bandito dalle farmacie la vendita degli antivirali, del Tachiflu, me l'ha indicato come farmaco simbolo insomma degli antinfluenzali. L'obiettivo è ben preciso, è quello di costringere in qualche modo chi ha dei sintomi o dei sospetti di influenza, la febbre e quant'altro, a praticamente denunciarsi alle autorità sanitarie pubbliche, in modo tale da essere in qualche modo schedato, registrato dai medici cinesi, che naturalmente in cambio offrono cure gratis, ma anche, se vogliamo, una sorta di quarantena, quindi è un modo preventivo tipicamente cinese, direi tipicamente comunista, di controllare le epidemie. D'altronde la Cina ha avuto vicende anche nel recente passato con SARS e aviaria. Più nello specifico, l'ufficio di ispezione e quarantena cinese, un nome anche questo un po' sinistro, mi fa venire in mente qualcosa tipo il pianeta delle scimmie, insomma il futuro apocalittico, ha imposto un controllo sanitario per i passeggeri che arrivano dal Messico e da altre zone a rischio, come per esempio gli Stati Uniti. Praticamente tutti i passeggeri che hanno sintomi di febbre o tosse vengono invitati, non so poi in che maniera, negli ospedali di quarantena, e quindi sottoposti a controlli. Contemporaneamente non se ne sa più nulla. Non se ne sa più nulla. Contemporaneamente gli esperti cinesi suggeriscono ai cittadini di mangiare carne di maiale cotta, che è più sicura, ed è stata invece vietata l'importazione di prodotti suini di maiale dal Messico e dagli Stati Uniti. A Pechino in particolare tutte le partite di carne che arrivano da Messico, Texas, Kansas e California a partire dal 26 aprile sono respinte o distrutte. La stessa cosa sta facendo praticamente anche la Russia. Oh, adesso apriamo uno spazio che si chiama Indovina con chi vado a cena, insomma una roba del genere, e vi leggo alcune dichiarazioni. Queste sono dichiarazioni di Michelle Obama, che sentiamo. Anche lei naturalmente nella fatidica giornata, centesima giornata alla Casa Bianca, dice la sua e parla di questioni intime, è la First Lady, e dice: non siamo una coppia da favola, l'armonia ci costa fatica. Abbiamo recuperato alcuni momenti preziosi che avevamo perso in passato, ceniamo quasi sempre insieme, è una scelta precisa. Ma parla di adesso? Cioè durante la presidenza? Ceniamo quasi sempre, cioè il presidente cena a casa. Non questo, ci credo. C'è un cartello scritto fuori da Casa Bianca, non scritto, disturbare. Il presidente cena a casa. Ma questo è solo il primo capitolo del mio personale spazio Indovina chi viene a cena, perché poi c'è il secondo capitolo, che è così un po' più dark, un po' più opaco, perché io vi dico soltanto questo: lui, come al solito, banale, bistecca e patate fritte. Lei, così più pruriginosa, rughetta e tortino alla cipolla, una scelta sulla quale io avrei anche da dire. Il tutto a un tavolo di E voilà, che è un elegante ristorante di Washington sulla MacArthur Boulevard. E chi sono? Sono naturalmente Bill e Hillary Clinton, che Love si sono affair, stufati e hanno fatto una cena chiamando naturalmente i paparazzi attraverso l'ufficio stampa, e hanno fatto capire che la love story è di nuovo esplosa. Non ci crede assolutamente nessuno, se volete potremmo anche lanciare un sondaggio a riguardo. Il microscopio ha analizzato questo matrimonio in tutti i particolari, ma adesso Hillary è partita con il piede giusto nel segretariato di Stato. Io ricordo che anche solo nel 2016 Hillary avrebbe 67-68 anni. Non così vecchia, dice. Fatevi due conti, insomma, avete capito l'aria che tira. E Bill, naturalmente, ci mette del suo, fermo restando che quando arriva il momento di ordinare, lui dice: per favore, bistecca e patatine. Un ragazzo dell'Arkansas, no? Hai cose, vedo che hai un foglietto. No, sono sempre ti fogli, giri tra le mani nervosamente. Sono i fogli che ho già letto, non ho più niente da dire sulla febbre suina. Ok. Va bene, questa era Jefferson 2, l'arte da svolto. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Valeria Bernardi a Milano. La mail è jefferson2@radio24.it, le nostre pagine Facebook, alle quali continuiamo naturalmente a invitarvi a iscrivervi numerosi, si chiamano Redazione Jefferson 2, per stare in contatto con noi, proporci, dirci o dire di vostra iniziativa, e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself per partecipare ai nostri focus quotidiani. La puntata di oggi va in replica a mezzanotte, la trovate in podcast sul sito della radio, va in diretta dopo le 4 domani qui su Radio 24. Ci risentiamo.